Vincenzo Manna, regista dello spettacolo Odissea, che sarà qui a Roma al Teatro Vittoria da oggi fino al 19, quindi domenica, tutta la settimana. Vincenzo, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po', cos'è Odissea? Odissea è un adattamento, parte da Omero e mette insieme vari... l'immensa letteratura che è stata scritta intorno al personaggio di Odisseo, e ne tira fuori una storia inedita, nuova, contemporanea, che ha a che fare col mito di Odisseo, ma grazie all'idea del viaggio, della conoscenza, parla anche un po' dell'uomo dei giorni nostri. Senti, dove avete attinto rispetto ai tanti testi riguardanti l'argomento? Beh, innanzitutto da Omero, perché ovviamente essendo il creatore del mito, lui è stato il punto di riferimento fondamentale anche per la storia, ecco, per ricostruire le tappe di questi 20 anni che Ulisse spende in giro una volta finita la guerra di Troia. Ovviamente abbiamo fatto una selezione degli episodi che lo vedono protagonista, e ne abbiamo scelte all'incirca una decina. Lo spettacolo dura tempo decente, insomma, se uno volesse fare tutta l'Odissea ci metterebbe giorni, no? Ci sono stati anche registi che hanno fatto allestimenti mastodontici, ecco, questo non è il caso. Vengono selezionati alcuni episodi fondamentali seguendo un filo, ovviamente. Quindi il punto di riferimento è stato Omero, ma abbiamo integrato il testo epico con un testo scritto da Derek Walcott, che è un Nobel, uno dei Nobel meno conosciuti forse, ma non uno dei peggiori assolutamente, anzi, che scrisse un testo negli anni 90 per la Royal Shakespeare Company di Londra, e scrisse un testo in versi molto bello, che già fa un'operazione di modernizzazione della figura di Odisseo. Quindi i punti di riferimento sono stati, come dice il titolo, Omero e Walcott, e poi abbiamo integrato il materiale testuale e la drammaturgia con brani vari presi dall'immensa letteratura che è su Odisseo. Ci sono anche dei pezzi di poesia, c'è Cavafis, Quasimodo, insomma. Il punto di partenza è stato proprio un grosso lavoro sulla drammaturgia, ecco, okay. sul testo teatrale. Senti, su quali caratteristiche avete puntato lo spettacolo rispetto al personaggio e al mito dell'Odissea? Ma guarda, abbiamo capito delle cose lavorando, più che altro, perché Odisseo, essendo una figura molto frequentata a partire dagli anni scolastici, insomma, e spesso viene collegato all'intelligenza, no? Viene messo un po' in contrapposizione con le figure più eroiche, più guerriere dei poemi epici, ma in realtà l'Odisseo che abbiamo scoperto non è solo intelligenza, è più che intelligenza, è astuzia. È un uomo molto molto pratico, che legge molto bene le situazioni in cui si trova e trova subito il modo per uscirne fuori. La cosa che ci ha sorpreso di più è questo Odisseo viscerale, molto istintivo, paradossalmente, animale, che si trova in situazioni Circe su tutte, ma Calipso, che è vittima della sua istintualità proprio, della sua avidità anche, perché Odisseo è stato avido durante la guerra di Troia, come tutti gli altri guerrieri, è stato un guerriero spietato, è stato un guerriero che ha ceduto a delle pulsioni che hanno molto poco a che fare con la razionalità, no? Tutto il viaggio, Walcott dice a un certo punto del testo, ipotizza ovviamente che tutto il viaggio di Odisseo potrebbe addirittura essere frutto della sua immaginazione, no? Mm-hmm. Quindi questo è un aspetto che è venuto fuori nel lavoro e che viene assolutamente messo in risalto durante lo spettacolo. Quello che gli spettatori vedono sono proprio questi, li chiamo Odisseo mostri, che incontra durante il viaggio di ritorno ad Itaca. Ma come dice Cavafis in una poesia molto bella, sono mostri che Odisseo ha voluto, che ha cercato, perché sarebbe potuto tornare a casa, ma non c'è mai tornato, non c'è mai voluto tornare, tant'è che Dante poi, quando lo fa tornare a casa, lo fa ripartire subito dopo. Senti, quali persone oggi potrebbero incarnarlo? Persone, dice, a livello sociale? Sì, sì, nel mondo. Ma, quello di Odisseo è uno dei miti fondanti, no, della cultura, della nostra cultura, della nostra, della cultura occidentale, insieme a Amleto, Faust, Don Giovanni, no, esprimono degli universali, no, proprio delle pulsioni primarie dell'uomo. Quindi io credo che un po' di Odisseo, come un po' di Amleto, un po' di Faust, un po' di Don Giovanni siano in tutti gli uomini. Tutti, sì. Senti, si tratta di una prima? Lo spettacolo ha debuttato l'anno scorso allo Spazio Diamante, che è uno spazio nuovo, che è sempre qui a Roma. Siamo stati in scena 3 settimane, poi abbiamo fatto un'anteprima nelle Marche, a Civitanova, al Teatro Anni Palcaro. Diciamo che l'allestimento definitivo però è questo qui, che andrà in scena al Teatro Vittoria. Ci sono state delle sostituzioni nel cast, abbiamo riassettato tutto lo spettacolo per poi una tournée che verrà fatta presumibilmente quest'estate. Abbiamo intenzione di portare lo spettacolo in dei siti archeologici, quindi utilizzare le risorse che abbiamo qui in Italia, insomma, dove di siti archeologici ce ne sono in abbondanza, sia teatri sia siti che hanno poco a che fare col teatro, ma che comunque hanno quel sapore di antico, che possa essere la scenografia ideale per uno spettacolo come il nostro. Senti, per la messa in scena avete pensato a diversi cambi di scena o avete individuato un luogo? Beh, c'è una scenografia fissa, che però è una scenografia che è costruita, costituita da una struttura di ferro, che però, grazie alle azioni degli attori, grazie alle luci, viene connotata in modo diverso. Quindi c'è una scenografia fissa che è Itaca, che è Sparta, che è la nave di Odisseo. Tutto viene fatto a vista, tutto sfrutta meravigliosamente la convenzione teatrale, il patto che si instaura tra pubblico e palcoscenico e attori, appunto. Allora, ricordiamo l'appuntamento da oggi a domenica, dal 14 al 19 marzo, al Teatro Vittoria con l'Odissea. Un abbraccio e a risentirci presto. Va bene, grazie mille. Ciao. In bocca al lupo a tutti. Ciao. Ciao, Vincenzo. Ciao.